Letture di Radio 24. Mi resta solo da chiedere a Sua Maestà di pregare per una regina che ha portato il titolo di cristianissima e che ora muore da cattolica, spogliata di tutti i suoi beni. Così scrive Maria Stuarda al fratello l'8 febbraio 1587, poche ore prima di essere decapitata. Illustre fratello, dopo essere stata affidata da Dio, credo per i miei peccati, al volere di mia cugina la regina, nelle cui mani ho sofferto molto per quasi 20 anni, sono finalmente stata condannata a morte da lei e dalla sua cerchia. Ho chiesto i miei fogli, che mi sono stati tolti, per poter scrivere le mie volontà, ma non sono riuscita a recuperare nulla di utile, né a ottenere un permesso per redigere liberamente le mie ultime volontà o chiedere che dopo la morte il mio corpo venga trasferito come vorrei nel vostro regno, dove ho avuto l'onore di essere regina, sorella e fedele alleata. Questa sera, dopo cena, mi hanno comunicato la sentenza. Sarò giustiziata come un criminale alle 8 di mattina. Non ho avuto tempo di informarvi di tutto quel che è successo, ma se chiederete al mio dottore e ai miei altri sventurati servitori, conoscerete la verità e capirete come, grazie al cielo, io non tema la morte e giuri di andarle incontro senza aver commesso crimini, pur avendone subiti. La fede cattolica e la rivendicazione del mio diritto divino alla corona inglese sono i due fatti che hanno portato alla mia condanna. Eppure, non posso dire che morirò per la religione cattolica, bensì per il timore di ingerenze con la loro religione. A comprova di questo, hanno allontanato il mio cappellano, che pur trovandosi nel palazzo, non ha avuto il permesso di venirmi a confessare e darmi l'ultimo sacramento, mentre hanno insistito perché ricevessi il conforto e le istruzioni del loro sacerdote, convocato allo scopo. Chi vi consegnerà questa lettera e i suoi compagni, la maggior parte dei quali sono vostri sudditi, testimonieranno della mia condotta nei miei ultimi momenti. Mi resta solo da chiedere a Sua Maestà Cristianissima, mio cognato e fedele alleato, che ha sempre affermato il suo amore per me, di dar prova ora della sua bontà in queste 3 cose. Primo, in carità, pagando ai miei sventurati servitori le paghe dovute, un peso sulla coscienza che solo voi potete togliermi. Poi, offrendo delle preghiere a Dio per una regina che ha portato il titolo di cristianissima e che ora muore da cattolica, spogliata di tutti i suoi beni. Quanto a mio figlio, lo affido a voi, per tutto ciò di cui avrà bisogno, non potendo rispondere per lui. Mi sono presa la libertà di mandarvi 2 pietre preziose, 2 talismani contro la malattia, nella speranza che godrete di buona salute e di una vita lunga e felice. Accettatele come un dono dalla vostra devota cognata, che in punto di morte non dimentica l'affetto che prova nei vostri confronti. Di nuovo, vi affido i miei servitori. Se lo desiderate, per amore della mia anima, date istruzioni affinché parte di ciò che mi dovete sia pagato e che per amore di Gesù Cristo, che pregherò per voi domani, mentre morirò, mi sia lasciato abbastanza per istituire una messa commemorativa e dare le consuete elemosine. Mercoledì alle 2 di notte. La vostra devota e fedele sorella, Mary. Avete ascoltato una lettera scritta da Maria Stuarda al fratello, tratta dal volume L'arte delle lettere, 125 corrispondenze indimenticabili, a cura di Sean Asher. Feltrinelli, 384 pagine, 35 euro. Io vorrei un'Europa fondata sul lavoro. E tu come vorresti l'Europa? Ogni giorno alle 14 alle 21.30 Europa 24 ti aiuta a costruirla, informandoti in tempo reale sulla situazione politica, economica e culturale dell'Unione Europea, per essere davvero cittadini d'Europa. In collaborazione con Euronet Plus. Letture di Radio 24. Quando siamo impegnati in una trattativa, anziché pretendere di avere delle risposte, è più utile fare domande, saper ascoltare e soprattutto essere in grado di proporre. Difficilmente un negoziatore che sia realmente efficace recrimina, polemizza o minaccia. Un negoziatore fa proposte. Questo consente di uscire da sterili dialoghi, di fatto spesso dei monologhi, dall'infecondità della polemica e dalla pochezza di approcci recriminatori o, peggio, minatori. Non ci vogliono grandi capacità per fare tutto ciò, è abbastanza alla portata di tutti e costruire la nostra professionalità sull'utilizzo di questi strumenti ci rende sul mercato del lavoro abbastanza fungibili. Fare proposte ha un primo devastante effetto. Sposta l'attenzione su dati concreti e mette in condizione chi le fa di guidare la trattativa, perché farà sì che si inizi a parlare di numeri, i suoi. Ma allora perché le persone non fanno proposte? Per svariate ragioni, perché spesso non hanno chiari i propri obiettivi e, peggio ancora, se agiscono su mandato, non hanno chiari i contenuti del mandato stesso. Altre volte sperano di ottenere di più se a fare il primo passo sono gli altri e, in ultimo, sono consapevoli che fare proposte è un gesto di responsabilità e questo spaventa. Prendere l'iniziativa e fare la proposta è un atteggiamento che testimonia preparazione, chiarezza circa i propri obiettivi e visione strategica integrata alla più ampia gestione del proprio ruolo. Fare la proposta è una chiara forma di assunzione di responsabilità. So che cosa voglio, mi sono preparato, agisco consapevolmente per ottenerlo. Da vittima a protagonista. Questa potrebbe essere un'utile rilettura del ruolo della proposta nell'ottica del nostro contributo alla generazione del cambiamento. Proporre significa prendere una posizione e tracciare un percorso. Veniamo al secondo punto, l'ascolto, il cui beneficio sta nell'opportunità di arricchire la nostra conoscenza attraverso gli altri. I negoziatori capaci, in genere, parlano poco e ascoltano. Ascoltare è annullare momentaneamente se stessi per dedicarsi agli altri, è accettare di mettersi da parte per porre al centro i nostri interlocutori e la loro visione del mondo. Tutto il nostro percorso educativo è incentrato sulla parola. I genitori non si chiedono quando i figli hanno iniziato ad ascoltare, ma quando hanno iniziato a parlare. Eppure, che la parola sia meno importante dell'ascolto, lo dovremmo capire dalla stessa fisiologia umana. Abbiamo una bocca e due orecchie. Ascoltare è annullare momentaneamente se stessi per dedicarsi agli altri. È accettare di mettersi da parte per porre al centro i nostri interlocutori e la loro visione del mondo. In ultimo, il fare domande, qualità irrinunciabile per un negoziatore, attività spesso inibita da processi educativi che hanno origine da approcci dogmatici. Il problema non si può definire o relegare a una questione semplicemente culturale, pena un atteggiamento di indulgenza verso una improficua generalizzazione. Ma è vero che la nostra cultura scolastica in Italia è molto inibente rispetto al porgere delle domande. Già tra i banchi della scuola, il porre domande viene stigmatizzato come generico indice di impreparazione o di larvato dissenso, anziché valutato e incentivato come manifestazione di sana curiosità, volontà di approfondimento o interesse per una migliore comprensione. E questo retaggio ce lo portiamo nel mondo del lavoro. Fare domande è sentito come una diminuzio. Capiranno che non sappiamo. È diffusa la convinzione che la persona brillante abbia sempre la risposta pronta. Insomma, è idea comune che ciò che attrae gli altri siano le nostre risposte. È al contrario ampiamente dimostrato da approfonditi studi sulla leadership, ma soprattutto sull'efficacia nell'instaurare relazioni, che porre le domande più appropriate è assai più importante che avere o cercare sempre le risposte giuste. Ricercare nei nostri interlocutori queste tre componenti, come lo svilupparle in noi, è importante. Da una parte, perché individuare dei buoni negoziatori ci renderà la vita migliore. Dall'altra, perché saremo noi a renderla migliore. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Alessandra Colonna, Il buon negoziatore? Sa fare domande e ascoltare, pubblicato il 2 novembre sulla rivista online L'Inchiesta. Il 26 maggio del 1828, in una piazza di Norimberga, appare all'improvviso un ragazzo di circa 17 anni, in grado di pronunciare solo poche parole, tra le quali un nome, forse il suo, Caspar Hauser. Sulle origini del ragazzo sono state formulate molte ipotesi e la sua triste vicenda ha ispirato l'omonimo film di Werner Herzog, oltre a migliaia di libri. Tra questi, quello scritto nel 1908 da Jacob Wasserman e riproposto oggi dalla casa editrice Elliot, abbraccia la tesi che in realtà il trovatello fosse un principe della famiglia regnante Baden, vittima di una serie di intrighi dinastici. Caspar viene inizialmente affidato alle cure del professor Daumer, che un po' alla volta riesce ad ottenere delle informazioni da lui e scopre che Caspar aveva passato gli ultimi 12 anni in una cella buia, incatenato al pavimento. Caspar venne poi trasferito nella casa del barone von Tucher. Un giorno il barone gli chiede che cosa avrebbe voluto fare nella vita. Caspar tacque, con lo sguardo incerto fisso davanti a sé. «Che ne diresti del giardinaggio?» proseguì il barone benevolo. «Oppure preferiresti lavorare da falegname o diventare rilegatore di libri? I tuoi lavori in cartone sono eccellenti e potresti imparare in breve tempo l'arte del rilegatore. E potrei leggere tutti i libri che rilegherei?» chiese Caspar meditabondo. Stava così curvo da toccare il piano del tavolo con il mento. Von Tucher corrugò la fronte. «Questo significherebbe trascurare il lavoro», rispose. «Potrei diventare orologiaio», suggerì Caspar, che in quel momento immaginava l'orologiaio come uno che vive all'interno dei campanili e ordina alle campane di suonare, incastra le rotelline dorate le une nelle altre, rendendo il tempo invisibile grazie a una formula magica pronunciata da un minuscolo rifugio. La cosa più difficile era proprio quella di dare un nome alle proprie aspirazioni. Non dipendeva dalla sua volontà, ma da un'inconcepibile e complicata immagine di tutta la vita. Il barone von Tucher non voleva mettergli fretta, ma anzi lasciargli quanto tempo voleva. Così andò su e giù per la stanza per un po' e poi eseguì al pianoforte il movimento lento di una sonata. Era una musica triste che per Caspar rappresentò un vero tormento. Gli piacevano molto le marce, i valzer e le canzoncine allegre. Quando il barone ebbe concluso il pezzo con l'accordo finale, si voltò verso Caspar sullo sgabello girevole e lo guardò con aria interrogativa. Il ragazzo, credendo che gli venisse chiesto di esprimere un giudizio, confessò: «Posso essere triste da solo, non ho bisogno dell'aiuto della musica». Von Tucher rimase stupefatto e inarcò le sopracciglia. «Che cosa credi?» ribatté tranquillo. «Non ti ho chiesto un'opinione musicale e non ho l'ambizione di migliorare i tuoi gusti in materia. Puoi andare in camera tua». Nella solitudine, Caspar aveva l'impressione che la gente fosse annoiata di lui e che tentassero perciò di sbarazzarsene. Era pieno di presentimenti e di inquietudini. Le notti in cui c'era la luna, spegneva la candela prima del solito, sedeva accanto alla finestra e seguiva attento il suo viaggio nel cielo. Nei periodi di plenilunio, gli accadeva spesso di sentirsi male durante il giorno, gelato dalla testa ai piedi, con un senso di oppressione nel petto che svaniva non appena vedeva spuntare il disco argentato. Sapeva da quale tetto o fra quali guglie l'avrebbe visto sorgere, come se due mani lo sollevassero verso il cielo profondo, e se c'erano nuvole in giro, tremava all'idea che potessero toccare l'astro notturno, convinto che la luce raggiante sarebbe rimasta contaminata. Avete ascoltato alcune pagine dal libro di Jacob Wasserman, Caspar Hauser o l'inerzia del cuore, Elliot Edizioni, 380 pagine, 28 euro.